Sono in collegamento con Anna Dora Adorno e Nicola Pianzola di Instabili Vaganti. Innanzitutto buongiorno e benvenuti su Radio Città Fugico. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti, grazie. Dopo il successo della webserie performativa 8 e mezzo Theater Clips, vi state preparando a realizzare altre tre nuove webserie. Di che cosa si tratta? Sì, allora, si tratta di tre serie in collaborazione con tre diversi istituti italiani di cultura, l'Istituto Italiano di Pechino, di Madrid e di New Delhi. Quindi diciamo che sono delle collaborazioni con artisti internazionali a distanza e quindi, come appunto può far capire, diciamo, la relazione con gli istituti, sono delle collaborazioni con artisti cinesi, indiani e spagnoli. E in particolare diciamo che la prima serie, The New Silk Road, è quella in collaborazione appunto con la Cina, dove c'è una collaborazione con danza attrici e registe e performer cinesi, proprio per indagare tre città che sono appunto lungo il percorso della Via della Seta, e cioè Pechino, Wuhan e Xi'an. Quindi è una serie che, diciamo, impronta tutta la sua poetica sul viaggio e sui viaggiatori, quindi rievocando, diciamo, un po' il percorso anche fatto da Marco Polo in passato. Poi abbiamo la serie in collaborazione invece con Madrid, con il collettivo Cross Border, che invece tratta delle sette arti, cioè indagheremo attraverso il teatro, appunto, sette arti, quindi dalla pittura alla scultura all'architettura, cercando di dare attraverso, diciamo, il nostro linguaggio, quindi contemporaneo, una visione appunto di queste arti dal punto di vista del teatro, proprio perché noi crediamo appunto che il teatro alla fine sia la somma un po' di tutte le arti e quindi che possa in un certo qual modo ricomprenderle tutte. E infine l'ultima serie in collaborazione con New Delhi e con un artista indiana di danze tradizionali indiane, dove ci rifaremo, diciamo, all'immaginario dantesco, quindi in occasione appunto delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante, ci ispiriamo appunto alla Divina Commedia ed in particolar modo alle relazioni tra la cultura e la filosofia orientale nell'opera di Dante. Vi volevo chiedere com'è stato collaborare così tanto a distanza con queste altre realtà e soprattutto come è stato anche riadattare e rivedere il vostro modello di attività da un palcoscenico a una webserie. Non è stato affatto semplice, specialmente all'inizio, ma non lo è tuttora, nel senso che è un processo altalenante che, se da un lato ci fa sentire la privazione del contatto con questi artisti, di lavorare insieme in una sala di lavoro, come abbiamo fatto in questi 15 anni di attività, organizzando sessioni internazionali dove invitavamo artisti stranieri a lavorare con noi, dall'altro ci ha fatto scoprire delle nuove modalità e ci ha insegnato molto. È stato anche un percorso di autoformazione, sia in questo, diciamo, nuovo know-how di relazionarsi attraverso le piattaforme di web video conferencing, quindi incontrarsi, discutere, scambiarsi materiali, sia dal punto di vista anche della visibilità della piattaforma. Si tratta non tanto di andare in scena, ma di presentare il proprio prodotto in video. Quindi ci ha dato delle competenze anche di video editing, diciamo competenze che si spostano anche di più sul settore dell'audiovisivo e del cinema. Quindi nuovi linguaggi che erano già presenti nel nostro lavoro sono stati implementati da questo tipo di collaborazione. Poi in alcuni paesi è stato più semplice, in altri paesi è stato più difficile, anche perché le comunicazioni sono più complesse, filtrate, oppure dobbiamo usare altre piattaforme. Ogni paese ha le sue regole, diciamo, legate alla comunicazione, e questo anche ci ha insegnato molto, ha ampliato la nostra visione del settore dello spettacolo nel mondo. Certo, una domanda invece un po' più pratica, diciamo, come sarà possibile seguire i vari appuntamenti di questa rassegna? Allora, il progetto consiste in questo, sono delle vere e proprie coproduzioni con gli istituti italiani di cultura e le ambasciate, quindi le performance in video sono programmate dagli istituti, secondo un calendario prestabilito, sui propri canali social. Quindi diciamo che generalmente la pagina Facebook, YouTube, Twitter e Instagram e sui nostri canali social come compagnia, quindi sul nostro sito c'è una sezione film e video con tutti questi nuovi progetti di video performance, con tutti gli episodi precedenti, quindi è possibile fruire in maniera gratuita di questi contenuti, che in genere sono delle clip video che vanno dai 5 a un massimo di 8 minuti, tranne nel caso della Cina, dove sono lavori più complessi, più articolati, che hanno una durata di 10 minuti, vanno a formare una trilogia che diventa già quasi un mediometraggio. Perfetto, io vi ringrazio tantissimo per averci raccontato da ancora più vicino il vostro lavoro. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie a te.